Solfelde, Solfelde. Solfelde, Solfelde. Solfelde, Solfelde. Solfelde, Solfelde. Jazz on Megahertz. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz, che oggi è dedicata alla presentazione del Festival di Saalfelden, un festival al quale tradizionalmente come Salpinaz partecipiamo. Quest'anno diciamo che si conferma un po' la traccia dell'anno passato, cioè una sorta di diminuzione evidente dei finanziamenti, quindi un'attenzione che si è cambiata da parte della direzione artistica, cercando più sul versante delle nuove tendenze, delle nuove generazioni, più che su nomi consolidati. Non che manchino questi, però insomma sono direi meno degli anni passati, non dell'anno scorso probabilmente, ma degli anni passati sì. Rispetto all'anno scorso, a mio avviso, c'è un interesse maggiore nel senso che in effetti molti di questi personaggi sono già presenti sulla scena internazionale, si sono affacciati, diciamo, sulla scena internazionale, suscitando una certa attenzione da parte della critica. Poi sono anche maggiori quelli provenienti dagli Stati Uniti, quindi musicisti americani sono di più rispetto all'anno scorso. Non ci sono, perlomeno non così vistosamente, musicisti norvegesi che l'anno scorso avevano praticamente occupato metà del cartellone, pur naturalmente presentandosi con personaggi di primissimo livello. Mentre gli ospiti spaziano veramente per tutto il mondo, insomma, si può dire. Molti francesi, direi, ma anche slavi, tedeschi. C'è sempre questa attenzione nel definire quella che è l'origine dei gruppi musicali e dei musicisti che partecipano. Forse questo anche per sottolineare le caratteristiche tecniche e stilistiche che possono essere più o meno visibili. Nomi importanti che non ascolteremo, per esempio l'ultimo di Erik Friedlander, l'ultimo gruppo che abbiamo ascoltato poche settimane fa, che presenta appunto quest'ultimo lavoro, una formazione all-star che probabilmente è anche quella di punta del festival, è la conclusione peraltro del festival, con Friedlander, Uri Kane, Mark Elias, Chess Smith. Oppure ecco un altro gruppo interessante che però non ha al suo attivo nessuna produzione discografica, pur avendo tutti i musicisti decisamente collaborato tra di loro, ed è il gruppo di Thomas Fujiwara, con Mary Alvorson, Gerard Creever, con Ralph, due trombe, interessante anche la timbrica, infatti sono due chitarristi e due le trombe o cornetta, Taylor Robinum e Ralph Alessi alle trombe e Mary Alvorson e Brandon Seabrook alle chitarre, e due batteristi peraltro, quindi con Thomas Fujiwara e Gerard Cleaver. Ecco, poi Mark Ribot con un nuovo progetto in quartetto. Però di questi non ascolteremo, perché oltretutto ne abbiamo parlato piuttosto di recente dei lavori di questi musicisti di primo piano. Cominciamo invece da una trombettista, una tromba, una delle voci che ha riscosso più attenzione da parte della critica per l'anno passato. Si tratta di Jamie Branch, direi l'area è quella chicagoana, che che si presenta con lo stesso progetto presentato appunto discograficamente l'anno passato, un disco intitolato Fly or Die, che ha visto anche molte premiazioni, diciamo, o classifiche di alto livello, sia per lei come nuovo talento sia per il disco. È una formazione interessante, anzi direi decisamente di livello, perché vede Chad Taylor alla batteria, poi Jason Azamian al contrabbasso, un nuovo talento interessante, e Lester St. Louis al violoncello, oltre che lei, la Jamie Branch, alla tromba. Il disco aveva componenti diverse, però adesso ascolteremo il brano d'apertura, diciamo, del disco dell'anno scorso. Un'altra cosa interessante soltanto abbiamo ascoltato Jamie Branch nel brano che abbiamo ascoltato, appunto. La presenza femminile per questo festival è decisamente notevole. Sono sia di personaggi di primo livello che anche di altri meno conosciuti, però che rivestono un interesse notevole. Però adesso ascoltiamo comunque un brano di Nicole Mitchell. Quest'anno Nicole Mitchell è stata piuttosto attiva, diciamo negli ultimi mesi, è stata piuttosto attiva anche nelle produzioni discografiche, con progetti anche i più diversi. Uno dei più riusciti è questo, appunto, col quale si presenta a Saalfelden, che è Mandorla Awakening secondo. Il disco intitolato Emerging Worlds. La formazione che accompagnerà Nicole Mitchell sarà simile ma non identica a quella del disco. Per esempio, oltre naturalmente al flauto e alla voce di Nicole Mitchell, un'accompagnatrice costante che è Tomeka Reid al violoncello o al banjo o altri strumenti a corda. Poi, per esempio, Jovia Armstrong alle percussioni, un'altra delle presenze diciamo frequenti, e altri musicisti diciamo meno conosciuti. Comunque una formazione di 8 elementi, quindi piuttosto ricca, che recupera, come peraltro anche abbiamo sentito nella musica di Jamie Branch, recupera una nostalgia africana piuttosto profonda. Ascoltiamo un brano. Un altro progetto che interessa sia una musicista francese che un musicista americano è che questo è decisamente interessante, è un progetto che va avanti da diversi anni, è una collaborazione che vede Elliot Sharp, chitarrista, polistrumentista, genio diciamo al di fuori degli schemi, nella collaborazione con una cantante francese, Hélène Bréchard, una ricercatrice, una sperimentatrice, e ha prodotto ormai in diverse occasioni delle elaborazioni o delle riflessioni sulla canzone francese, specialmente sulla canzone francese, ma non solo. Direi che è sicuramente una delle cose attese, perché i progetti che hanno pubblicato discograficamente trovano un certo risultato di qualità. Ascoltiamo un brano preso da un lavoro uscito ormai alcuni anni fa, ed è del 14, Chanson de Crepuscole. Ascoltiamo questo duo. Thank you. Questo era un duo di Elliot Sharp con il cantante francese decisamente interessante, questa Hélène Branchard, piuttosto conosciuta in Francia comunque. Il prossimo personaggio che andiamo a incontrare è forse quello di punta, che non a caso chiude il festival, Eric Friedlander, col suo progetto Through a Glass. Artemisia, un gruppo americano che vede tutte stelle, perché ora oltre ad Eric Friedlander al violoncello, Uri Kane al pianoforte, Mark Elias al basso, si completa con l'ottimo batterista Chess Smith alle percussioni, alla ritmica. Quindi questo è un gruppo di cui c'è aspettarsi molto, anche perché l'ultima produzione discografica, proprio che è la stessa, Troy Glass Artemisia, ha dato prove di qualità con la medesima formazione, e da questo disco sentiamo il primo brano, The Great Revelation. Thank you. Un altro concerto che lo si potrà ascoltare, Shortcuts, quindi nel teatro più piccolo, è una pianista che ha avuto una certa visibilità anche in un incontro con Eve Rissier, una pianista che, come dire, Saalfelden ha dato prova di qualità straordinarie. È uscito qualche tempo fa un duo insieme a questa pianista francese di un'altra meno conosciuta, Kaia Draxler, che però ha trovato una certa risonanza e comunque ospitalità in una produzione discografica uscita l'anno scorso, in una formazione di ottetto, quindi piuttosto ambizioso, un disco doppio, dove, come dire, il confine tra quello che è la costruzione classica, anche la tradizione dell'esperienza della formazione classica, va a confinare anche con il linguaggio della ricerca e del jazz. Sono difficili definizioni queste come dire, collocazioni artistiche. Sicuramente è un artista interessante che però adesso ascolteremo nel lavoro dell'anno scorso intitolato Gledalac, però appunto Saalfelden si presenterà in un piano trio classico con Christian Lillinger alla batteria, batterista presente anche in altre formazioni e piuttosto frequente anche nel cartellone di Saalfelden. Sicuramente un personaggio affidabile con grandi qualità tecniche e grande personalità. Questa era una sorta di blues di Kaia Draxler col suo ottetto. Una delle cose più interessanti, a mio avviso, anche perché non mi sembra si sia mai visto, perlomeno negli ultimi 10 anni non si è visto di sicuro a Saalfelden, è un gruppo, un quintetto, che vede la presenza e la leadership condivisa di due sassofonisti che lavorano da molto tempo frequentemente insieme. Uno è un nome ormai storico, mitico del free americano, che è John McPhee, ormai ha verso gli 80 anni, è sempre presente in molti dei festival europei, soprattutto come un esponente, l'esponente massimo dell'avanguardia, della ricerca del free, della musica improvvisata. E questo sax tenore e anche alla tromba si cimenta, un po' come Ornette Coleman, quindi non certo da virtuoso, e ha una collaborazione da molto tempo con un altro personaggio che non è più, anche lui non è più un ragazzo, si tratta di Downey Clasdrow, altro sassofonista appunto. Si presenta questa formazione in quintetto con altri nomi di primo livello dell'ambito poi chicagoano. Si tratta di Joshua Abrams al contrabbasso, nuovo talento tra i più apprezzati, anche che ha prodotto lavori discografici che hanno avuto ottime recensioni. E alla batteria, lo straordinario e costante Chad Taylor. Una riflessione di passaggio: questo gruppo, che si chiama Pride of Lions, è indicato come americano, come gruppo USA, ma Downey Clasdrow è francese, poi vive da molto tempo negli Stati Uniti, ma mi ha fatto pensare per esempio all'anno scorso la presenza di negri, di Roberto Negro, che era indicato come francese, pur essendo italiano. E appunto la riflessione è quella di non vedere nomi italiani al festival. Ancora una volta l'assenza di musicisti italiani, che pur meriterebbero di essere presenti in compagini di questa importanza, è rumorosamente assente. Devo chiedermi francamente il perché e non riesco a darmene risposta. Comunque ascoltiamo adesso un frammento preso da uno dei tantissimi lavori condotti insieme da questo duo di sassofonisti. Qui lo ascoltiamo in duo a Cerkno Concert, una registrazione fatta in concerto appunto nel 16, un disco uscito nel 16 per un'etichetta minore, dove ascoltiamo un frammento di questo dialogo di omaggio peraltro a Ornette Coleman, un brano dedicato legittimamente a Ornette Coleman, visto che è stato il mito di entrambi. Questo era un frammento da un dialogo, un lungo dialogo tra Downey Glasrow e Joe McPhee. Entrambi peraltro pionieri dell'etichetta ATAT, con la quale hanno praticamente inciso quasi tutto il repertorio perlomeno più importante, più reperibile anche sul mercato. Un altro musicista, anche questa è una delle cose interessanti, che sarà presente ai Shortcuts, cioè i concerti nel Teatro Piccolo, all'inizio del festival, nella prima serata, è un chitarrista, Raoul Björkenheim, che viene dato per finlandese, ma americano, anzi di Los Angeles, abita da tempo o comunque si muove in territori che vedono sia la Finlandia che tutti i paesi nordici europei, nonché anche il territorio americano. Quindi un personaggio interessante, non è un giovane, ormai ha una certa esperienza alle spalle, ha trovato una sua occasione di visibilità iniziando a incidere qualche anno fa per l'etichetta Cuneiform, etichetta che fotografa e presenta, diciamo, un certo settore della musica, della nuova musica, delle nuove tendenze legate magari anche a linguaggi più rock, più vicini alla tradizione rock unita con quella jazzistica. È un chitarrista, sarà presente con un quartetto, con sassofono. I nomi non sono poi tanto conosciuti, comunque sono gli stessi che sono presenti anche nell'ultimo disco uscito per la Cuneiform, dal quale ascolteremo un brano. Il gruppo è chiamato Ecstasy. Thank you. Questo era un chitarrista Björkenheim, Raoul Björkenheim, sicuramente una delle attese, un gruppo interessante, anche divertente, piacevole, quindi una musica fatta anche d'impatto, come dire, fisico, senza tante lucubrazioni particolari nella ricerca, ma molto comunicativa. Un altro gruppo interessante è un gruppo svizzero, un trio di basso, chitarra e batteria, che anche se tutto sommato si potrebbe ascrivere al chitarrista, però prende il nome del gruppo, è un nome che raccoglie praticamente tutti i cognomi di questi tre musicisti. Si tratta di Andy Schnellemann al contrabbasso, David Meyer alla batteria e Manuel Troller alla chitarra, e appunto Schneller Troller Meyer il gruppo è chiamato. Il progetto intitolato Rights. Ascoltiamo, non sono dei novellini, anche se sono piuttosto giovani, ascoltiamo un brano preso da un disco uscito l'anno scorso, che era appunto quello che è lo stesso progetto che verrà presentato anche a Saalfelden. Questo era un trio svizzero interessante, con sonorità elettroniche interessanti. Sicuramente potrà essere una buona novità. Altro gruppo, diciamo, di dimensioni analoghe, perché anche in questo caso è un trio, però un trio che viene dalla Finlandia, chiamato Virta, con un disco presentato Urmos qualche anno fa e che presentano anche a Saalfelden. Il disco era uscito in quintetto, per la verità. Comunque a Saalfelden lo ascolteremo in trio. Ascoltiamo adesso anche un brano preso da questo disco, che è sicuramente interessante. Ecco, abbiamo ascoltato Virta, questo gruppo finlandese, interessante, molto, come dire, molto perentorio anche nella sua musicalità, ma anche ben godibile. Tra l'altro un po' tutto il lavoro prodotto, appunto, che verrà presentato a Saalfelden, ha questo tipo di retorica, anche divertente, piacevole, insomma. L'ultimo brano dal quale ascoltiamo una parte, diciamo, testimonia un incontro che però non sarà a Saalfelden, ma per due personaggi interessanti che ci saranno a Saalfelden in due formazioni diverse, sono i fratelli Ceccaldi, francesi, fanno parte sicuramente tra i più interessanti musicisti delle ultime generazioni, legati all'avanguardia, a musica di ricerca e anche appunto a un confine sempre più labile tra quello che è una musica contemporanea e un'espressione jazzistica. Saranno presenti con un gruppo, una formazione chiamata Chamber 4, che vede entrambi i fratelli, poi Luis Vincente alla tromba e Marcelo de Reis, Dos Reis alla chitarra. Ma i fratelli Ceccaldi sono uno al violino o canto, anche alla viola, si tratta di Teo Ceccaldi, e Valentin Ceccaldi appunto al violoncello, oltre che alla voce. E questo quartetto ha già inciso in diverse occasioni. Invece un altro gruppo, tra le cose perlomeno per quanto mi riguarda, anche che più mi interessano, una formazione Freaks chiamata, una formazione in sestetto, che vede appunto altri personaggi di primo piano della scena francese appunto si presentano con questo progetto che non ha avuto pubblicazioni discografiche. Però la voglia di presentare perlomeno uno dei Ceccaldi, forse anche il più importante, si tratta di Teo Ceccaldi, è un incontro che è avvenuto un paio d'anni fa ormai con un pianista. È stata una scoperta per quanto mi riguarda e per quanto riguarda, vedo, anche il resto dell'Italia, di una delle cose più interessanti del festival dell'anno scorso. Si tratta di Roberto Negro, pianista italiano però trapiantato da tempo a Parigi, e che appunto ha dimostrato ormai in varie pubblicazioni di essere uno degli artisti più interessanti del momento, per quanto appunto ritengo io. C'è un incontro appunto in duo, un disco uscito nel 16 intitolato Babies, dal quale ascolteremo un frammento, una parte del primo brano di apertura, una registrazione fatta dal vivo, quindi sono brani piuttosto lunghi, pochi e molto lunghi, molto articolati. Ascoltiamo questo lungo frammento. Thank you. Questo era il duo di Teo Ceccaldi con Roberto Negro, una registrazione uscita in un disco intitolato Babies nel 2016, quindi un paio di anni fa. Questo era anche l'ultimo degli ascolti. Si può ricordare che i concerti, come dicevo, si svolgeranno più o meno negli stessi luoghi, ma anche più o meno nelle stesse condizioni, quindi ci sarà i concerti in piazza gratuiti, che più influenzati, diciamo, dalla musica etnica e anche rivolti a un pubblico più largo. Poi al Nexus, il teatro più piccolo, andranno i Shortcuts, e però si aggiunge una sezione in più. Alla sera, sempre al Nexus, si svolgeranno anche dei concerti in contemporanea con quelli che invece verranno fatti al main stage, quelli più, diciamo, da richiamo. È una scelta, un po' si allinea con molti festival che trovano una concomitanza nella programmazione di alcuni concerti. Francamente non la ritengo una scelta tanto oculata, perché toglie poi la possibilità ai musicisti di poter fruire anche di un pubblico che ascolti con attenzione, visto che naturalmente sarà decisamente limitato. Poi ci saranno, come gli altri anni, anche i concerti per i bambini e quelli nei rifugi dei dintorni di Saalfelden. Un programma naturalmente anche quest'anno molto, molto nutrito, sono un'infinità veramente di musicisti presenti. Ecco, ci ascolteremo con attenzione, perché direi che una programmazione di questo tipo può lasciare decisamente sorprese interessanti e di alto profilo, visto il numero notevole di musicisti dei quali si sa qualcosa ma non tanto. Questo era l'ultimo ascolto, direi che chiudiamo questa trasmissione dedicata al Festival di Saalfelden e ci riascolteremo al prossimo.